CRM. In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Radio Service. Buonasera, buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento su CRM Happy Radio con Radio Service. Si chiude quest'oggi la settimana, una settimana veramente infernale con temperature da urlo. Ora per fortuna sembra, perché poi bisogna filtrare tutte le informazioni sul meteo, perché il Gazzettino dice una cosa, il sito internet ne dice un'altra, il giornale dice un'altra, quindi questo di pomeriggio cercheremo di fare un riassunto di tutte le previsioni meteo per capire qual è, insomma, alla fine la più attendibile. Ma parleremo ovviamente anche di tante altre cose, parleremo di informazione locale, si parla ancora di MUOS, a Niscemi, poi parleremo di affari in calo e ancora una volta un abusivo protagonista di questa notizia. Poi parleremo ancora di Palermo, occupano un asilo e lo trasformano in 4 appartamenti con piscina. Pensate un po', non si smette mai di rimanere stupiti. Poi, come anticipato, ovviamente parleremo del meteo, la rubrica sport, parleremo del Milan, allarme Balotelli. Poi moto, parleremo di Stoner, chiusi i test con la Honda, ancora Ferrari in pista in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Poi parleremo di cucina con la nostra rubrica Cosa bolle in pentola e scopriremo cosa c'è di buono da cenare stasera. E ovviamente non mancherà la rubrica Dove tirar tardi, gli eventi, gli spettacoli, e vi daremo le dritte su come passare al meglio questi prossimi giorni. Poi ovviamente anche l'appuntamento con lo shopping per i consigli di Radio Service su dove fare shopping e le attività commerciali più interessanti, gli sconti, le offerte assolutamente da non perdere. Do il benvenuto al mio collega Max Lanotte. Max, buon pomeriggio. Benvenuti. Grazie caro, benvenuto anche a te. Siamo ufficialmente pronti per iniziare questa nuova puntata di Radio Service con Hola. E poi in Spagna si dica ciao, no? Come si dice ciao. Questo è I'm in Love. Buon ascolto, inizia Radio Service. Stole my heart on Monday. She had me deep on Tuesday. Shut me up on Wednesday. Rewind it back the day before Tuesday. Stole my heart on Monday. She had me deep on Tuesday. Shut me up on Wednesday. Wish I was not, wish I was not. But I'm in love, I'm in love. Somebody curb this cupid. Wake me up or lose me. I messed it up, I messed it up. Wow, turn me upside down. This girl, turn me inside out. This girl, what you want me to say? I messed it up, I messed it up. Cause I'm in love. Radio Service, tutte le dritte per vivere al meglio la tua estate. L'agenda quotidiana degli spettacoli serali, l'informazione locale, le iniziative turistiche e sportive, dove mangiar bene e dove tirar tardi. In diretta tutti i giorni dalle 15 alle 18 su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. We're up all night to get lucky. Rivelerò cose che nessuno sa di me e lo farò solo perché tu non sai com'è. Brividi, sento quando guardo. Lasciato segni dentro. Io non ho voglia più di fare finta che vada tutto bene solo perché guardami, io sono qui. Vivere o niente, in fondo poi nemmeno sai perché solo ti muovi dentro questo spazio-tempo e lividi, vedi i tuoi ricordi. Quando senti che sono già morti, io non ho voglia più di fare finta che. Vasco Rossi, Vivere o Niente, questa è Radio Service in diretta su CRMP Radio. Tra poco parleremo di informazione locale, come anticipato argomenti abbastanza caldi in queste ultime ore. Volevo ricordarvi nel frattempo, prima di andare ad ascoltare la prossima canzone, il nostro sito internet crmpradio.it, dal quale potrete seguirci tutto il pomeriggio in streaming audio e video, quindi potete guardare anche dalla nostra web TV quanto accade all'interno dei nostri studi e ovviamente interagire con noi. C'è proprio un pulsantino, invia un messaggio in diretta che vi dà l'opportunità di comunicare proprio in tempo reale con noi, con la redazione. Quindi insomma, se volete fare gli auguri a qualcuno, fare un commento, salutare qualche altra persona, insomma siamo al vostro servizio, così come dice insomma il nostro programma Radio Service. Continua la musica, dalla musica italiana a quella internazionale, con Emily Sandé, grandissimo successo, voce splendida. Questa è Next to Me. Power. Sunday Next to Me su Radio Service. Adesso ci troviamo nuovamente a parlare di informazione locale. Quindi, come anticipato, parliamo del MUOS. Niscemi, tensione nella notte, attivisti occupano 4 antenne. 10 attivisti, infatti, non MUOS, sono saliti ieri sera su 4 delle 46 antenne del sistema di radiocomunicazioni della base americana di Contrada Ulmo a Niscemi. La zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine che stanno tentando di convincere i manifestanti a porre fine alla protesta. Tra l'altro, ecco, ci sono grossi problemi anche dal punto di vista meteorologico, perché le condizioni sono estreme e queste persone su queste antenne, ecco, hanno avuto anche dei problemi di salute. L'ultimo aggiornamento, che risale alle 11.05, dice che uno degli attivisti che erano saliti su 5 delle 46 antenne della base militare ha sospeso la protesta. È un 18enne ennese che è sceso dalla struttura in metallo che regge l'antenna. Nella base di Contrada Ulmo sono 9 gli aderenti al comitato No Muos, tra loro una coppia di fidanzati e il pacifista Turi Vaccaro, che si trovano attualmente ancora sulle antenne per protestare contro l'attivazione, appunto, di questo sistema di comunicazione. Ci spostiamo a Palermo. Affari in calo, abusivo spara ai gestori di un parcheggio privato. Abbiamo sentito la scorsa settimana, quando un assessore aveva trovato le 4 ruote dell'automobile bucate da un parcheggiatore abusivo perché non aveva pagato. Nuovamente parliamo di questo, parcheggio privato non gli piaceva, e così ha deciso di entrare in azione questo abusivo. In modo violento, quasi tragico, ha impugnato la pistola e ha sparato ai titolari ferendoli. Così un posteggiatore abusivo, un pregiudicato di 52 anni, è stato arrestato questa mattina dagli uomini del commissariato Libertà. L'episodio è successo ieri sera nei pressi del noto locale Il Moro all'Arenella. La recente nascita di quel parcheggio privato vicino ad uno dei posti più in del capoluogo non andava assolutamente bene ad alcuni posteggiatori abusivi, che hanno pensato di fare giustizia da soli in questo modo. Parliamo ancora di Palermo, una notizia davvero assurda. Finalmente si chiarisce perché due famiglie coinvolte nel crollo di via Bagolino abbiano rifiutato l'assistenza del comune. In realtà avevano occupato un asilo pubblico e avevano praticamente trasformato l'asilo pubblico in una zona residenziale con 4 appartamenti con piscina. Pensate un po', questo accade a Palermo. Lo sgombro è stato operato la scorsa settimana dai tecnici del comune. Parliamo adesso di meteo, un argomento che ci sta molto a cuore. La Sicilia vive le sue ultime ore di caldo. Infatti oggi a Palermo è arrivata purtroppo la temperatura massima di 36 gradi, come ieri invece a Catania i 35, ma a prescindere dai dati climatici, ecco, questo caldo ha le ore contate, in quanto domani sarà il giorno della svolta. Venerdì 9 agosto, infatti, un'insolita perturbazione nel clou della stagione andrà a squarciare queste belle giornate di sole, sostituendole con un clima quasi autunnale, più fresco e piacevole ma anche perturbato. Sin dalla mattinata, infatti, i primi temporali aborderanno la Sicilia nord-occidentale tra il palermitano e il trapanese, con temperature in picchiata. Il clou del maltempo sarà poi nel pomeriggio, con forti temporali soprattutto tra Messinese e Nisseno, ma in modo particolare su tutte le zone interne centro-settentrionali dell'isola e anche sui litorali tirrenici ed eoliani, dove tra l'altro imperverranno violenti temporali che provocheranno nubifragi, grandinate e trombe d'aria. Quindi occhio. Acqua fresca dal cielo. Acqua fresca dal cielo. La configurazione attesa per domani e sabato è una delle più violente e cattive per la Sicilia, in quanto arriva fuori stagione, in un periodo caldo, per cui i contrasti climatici e termici potranno alimentare l'energia che genera il maltempo sempre più estremo. Basti pensare, insomma, a fenomeni come quelli di oggi in Liguria e anche dell'anno scorso. Massima allerta quindi soprattutto nelle zone tirreniche, dove soffierà anche un forte vento di maestrale. Il maltempo insisterà anche per tutta la giornata di sabato e in modo residuo e debole persino domenica mattina. Poi la situazione migliorerà con il ritorno del sole ed è bel tempo, ma con temperature miti e piacevoli. Poi nuovamente prossima settimana ondata di freddo, di pioggia, quindi sembra che, insomma, l'estate si voglia fermare per qualche giorno. Arriva Giovanotti, chiudiamo la rubrica dell'informazione con Ti porto via con me. In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica, in questo inizio del mondo. I nostri sguardi si cercano con ali fatte di musica,

naturale che batte, batte, batte, si ribella a questa nostra vita, mondo che ci ha cambiati molto, sì, ma non fino in fondo, no, no, no, no, no, non passa. E allora batte, batte, batte, interminatamente batte il tuo animale che nella gente, se lo vuoi ascoltare, ti dirà, no, no, no, no, non passa. No, no. Era il 1993, questo è Raff, il battito animale. Adesso andiamo a parlare di viaggi ed escursioni. Radio Service, la tua guida turistica personale. Bene, questo pomeriggio vi vogliamo consigliare, insomma, un posto davvero molto particolare, neanche tanto lontano da dove abitiamo. Parliamo del Parco delle Madonie, un viaggio tra natura, arte e tradizioni. Bene, la flora è la protagonista del territorio del parco, questo paradiso botanico e le sue vette che raggiungono i 1979 metri di quota, ospita oltre la metà delle 2600 specie presenti in Sicilia e circa 150 dei 200 endemismi. Il più rappresentativo è l'Abies nebrodensis con 29 esemplari. La fauna è significativa, è caratterizzata dal 65% degli uccelli nidificatori e da tutti i mammiferi presenti in Sicilia, quindi si trova davvero una grandissima quantità di animali. Molto significativi sono anche gli aspetti geologici e paesaggistici. Da vari punti è possibile osservare straordinari paesaggi, tra cui tra l'altro anche l'Etna, i Nebrodi e le isole Eolie, che oltre alle albe e tramonti che si tingono veramente di colori splendidi, dando un aspetto quasi irreale. Il parco è ovviamente fornito di meravigliosi sentieri, svariati percorsi, ci sono vari punti di informazione, di servizio. E i sentieri più battuti, quelli più interessanti che quest'oggi vogliamo consigliarvi, sono il sentiero degli Abies nebrodiensis, il sentiero degli agrifogli giganti, il sentiero Nociazzi, Madonna dell'Alto Monte San Salvatore, quello dei monumenti della natura di Pomieri, il sentiero Case la Pazza, Piano Pomo, sentiero Marabilice e Piano Cervi. In questi sentieri troverete poi dei punti di interesse che sono il Vallone Madonna degli Angeli, Piano Pomo, Piano Battaglia e le Gole del Tiberio, che è un posto davvero spettacolare. Quindi vi insigliamo, se volete cercare maggiori informazioni e dettagli, il sito Parco delle Madonie, e lì potrete insomma organizzare anche una piccola gita fuori porta con i vostri figli in un periodo che è comunque piacevole e approfittare della natura a pochi passi da casa. Bene, la musica continua su Radio Service, arrivano adesso i Maroon 5, bellissima collaborazione con Christina Aguilera, e si parla di un grande della storia della musica, del rock, parliamo di Mick Jagger. Si muovono come Like Jagger, Moose Like Jagger. Just shoot for the star.

dies and has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Bella sta versione, Max, veramente in tutte le salse. L'ascolterei la prima volta che l'ho ascoltata, ricordo questa canzone, parliamo di due mesi, tre mesi fa. Ho detto, mazza che bella sta canzone, chissà di chi è. Poi ho scoperto i Daft Punk, insomma, gruppo storico. Sì, grande successo dell'estate 2013, non a caso da colonna sonora della nostra pubblicità di Radio Service. Bene. Andiamo avanti con Radio Service, con la musica italiana, grande rocker femminile. Gianna Nannini, scegli me. Se non sai di che morte morire, scegli me, scegli me. E chissà dove andiamo a finire, scegli me, scegli me. Io lo so che te ne vai, non si vince senza perderci. Non sai com'è bello impazzire. Scegli me, scegli me. Se lo sai e non riesci a dormire, scegli me, scegli me.

looks you may not believe. But baby, I'm really when you said goodbye, my whole world shined. Hey, hey, hey, it's a beautiful day. I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. The music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. But now I'm alright. Might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't wanna stay so long, I just wanna stay. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day to send this up. And the music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad. Ed eccoci tornati in diretta, questo è Radio Service su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede. Vi teniamo compagnia dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 con le notizie, lo sport, gli eventi e quant'altro. Chiaramente la buona musica di CRMP Radio. Questo era Michael Bublé. Eventi sportivi. Adesso parliamo di eventi sportivi e parliamo subito di calcio. Oh, calcio insomma, gli italiani, lo sport principale. Parliamo di Milan, allarme Balotelli, in mattinata gli esami per il problema al polpaccio destro. Se ci sarà da preoccuparsi per il polpaccio destro di Mario Balotelli, lo spiegheranno oggi gli esami più approfonditi. Il Milan rientra in Italia dalla tournée statunitense ed il controllo medico dovrebbe essere oggi a mezzogiorno, in contemporanea con il sorteggio per i playoff di Champions League, del quale ci informeremo a breve. Oltre a stabilire una diagnosi, ovviamente gli esami previsti rappresentano un momento chiave in ottica playoff. L'andata è prevista per il 20-21 agosto. A questo punto l'attaccante rischia di saltare anche l'amichevole che l'Italia disputerà il 14 agosto a Roma contro l'Argentina in onore di Papa Francesco. Parliamo adesso di moto. Chiusi test Honda con Stoner. Infatti l'ex campione del mondo Casey Stoner ha concluso una sessione di due giorni di prove con la Honda sul circuito Motegi in Giappone. Stoner è riuscito a usare sia la RC 213V 2013 sia la moto per il prossimo anno. Ha detto: è stato bello tornare in sella dopo 9 mesi e sono molto contento di come sono andati i test. Passiamo adesso alla Formula 1, invece Ferrari in pista in Gran Bretagna e Stati Uniti. Infatti è in arrivo un altro fine settimana ricco di corse per la Ferrari 458 GT. Le rosse saranno in pista a Brands Hatch nel Regno Unito per il campionato GT britannico e negli Stati Uniti a Road America per il Grand Am e le American Le Mans Series. A Brands Hatch andrà in scena il quinto appuntamento su 7 della GT Series, un campionato che riceve sempre più attenzione, tanto che la griglia di partenza prevede ora 5 Ferrari. Pensate un po'. Scusate, non parlavamo di Formula 1, è una formula americana. Tra loro la FF Course, guidata dal sudafricano Duvier e da inglese Hollings, uno sport insomma che sta prendendo piede molto forte anche in Italia. Continuiamo con la musica, chiusa rubrica dello sport, arriva lui, l'indiscusso forse rapper in questo momento. Ho capito bene, Balotelli ha un problema al ginocchio. Eh sì, la polpaccio. Potrei non mangiare più. Ma perché? Addoloratissimo. Le donne. Vorrei stare con una francese che mi baci alla francese, o magari con una spagnola che mi baci alla spagnola. Cos'è un bacio alla spagnola? Cosa fai? Lo domandi a un uomo.

colpi il cuore e la mia vita è ferita. Per te che mi strappi il cuore e la mia vita è ferita. Coltivo una rosa bianca e non il cardo e l'ortica. E a quest'ora viene sempre un certo appetito, eh? Sarà il caldo. Dice, ma quando mangi? Alle 11? No, in realtà, oh, c'ho fame, c'ho fame. Parliamo di uno spuntino, una merendina leggera, leggera, va. Parliamo di cucina. Cosa bolle in pentola? Bene, bene, bene. Per un bello spuntino, questo pomeriggio parliamo di pasta con le sarde. A quest'ora è eccezionale. Meravigliosa, e leggera. Leggera, leggera. La ricetta riguarda appunto la preparazione di questo piatto a base di pesce tipico della tradizione gastronomica del Sud Italia, della zona insomma del palermitano. Allora parliamo quindi della preparazione. Iniziamo la nostra ricetta partendo dal finocchietto. Puliteli privandoli di eventuali tracce di terra, quindi riponeteli all'interno di una pentola dai bordi alti e sbollentateli. Una volta ammorbiditi, li scolate e li tritate finemente. Bene. Prendete ora una pentola abbastanza capiente e mettetevi all'interno la cipolla tritata finemente, che farete imbiondire in un filo d'olio. Quando inizia a prendere il colore dorato, aggiungete le passoline, l'uva passa ed i pinoli, entrambi ammorbiditi in un po' di acqua tiepida e strizzati. Poi aggiungete le sarde, che ovviamente nel frattempo avrete fatto sciogliere in una ciotolina a parte insieme ad un cucchiaio di olio. Poi aggiungete il finocchietto, spadellate il tutto in modo da amalgamare al meglio i sapori. Nel frattempo, in una pentola a parte, mettete a cuocere i vostri spaghetti nella stessa acqua di cottura che avete utilizzato per il finocchietto. Potete usare anche un altro tipo di pasta, no? Quella che preferite. Anche il bucatino. Quando poi la pasta sarà pronta, la scolate, la versate nella padella con il sugo che avete precedentemente realizzato e spadellate insieme il tutto. Ricoprite infine con uno strato di pangrattato abbrustolito, aggiustate di sale e pepe. E poi la servite. Se volete potete metterla anche un po' in forno per creare quella crosticina croccante. Direi metterla in forno è necessario. È necessario, perfetto. Allora, ingredienti per due persone: abbiamo 200 g di pasta, bucatini, spaghetti, quello che preferite, 200 g di sarde fresche prive di lische, uva passa, un cucchiaino, in alternativa va bene appunto anche le passoline, poi pinoli, un cucchiaio, pan grattato tostato 50 g, finocchietto fresco 150 g, zafferano una bustina, pepe, olio e il tutto in 30 minuti il piatto è servito e vi mangiate la pasta con le sarde questa sera, che è una squisitezza, per sentito dire. Pasta con le sarde è patrimonio dell'UNESCO. Assolutamente. Continua la musica su CRM, dopo aver parlato di cucina, mi è venuta la fame adesso. Arriva il Rolling Stones, Rain, Fall Down, ce lo auguriamo tutti, a dire la verità. It was a filthy block of flats, trash was on the floor, a snake was in my nose, hinges off the doors. She took me in her room, I was big and span, fixed me up a drink, turned down all the lamps. And the rain fell down on the cold hard ground, and the phone kept ringing, and we made sweet love. Why do we live in this strange great town? The building up and let it all fall down. tea, hits me on the cheek, and I've turned on her TV. There's all the usual crap, all the usual sleeves, 14,000 quid, some bimbo spill the beans. Mick Jagger, ragazzi, quest'anno ho compiuto 70 anni, ancora dopo 50 anni di successi rimane un grandissimo personaggio, un'icona, ecco, senza dubbio, esplosivo sul palco. Recentemente, in occasione del suo compleanno, ha duettato con i big della musica di questi momenti: Lady Gaga, Katy Perry, Gwen Stefani, Taylor Swift, John Mayer, alla presenza, insomma, di tutti quanti i suoi amici che lo hanno sostenuto. Niente, per niente sfigurato, eh? Assolutamente, lui saltella come un grillo ancora a quest'età. Ha rubato la scena. Veramente. Ma anche Lady Gaga, secondo me, ha rubato la scena. vabbè 16.50 su CRM. Prima di fare una piccola pausa, ancora una bella canzone decisamente estiva, molto molto cubana. Sergio Mendes, Funky Bahia. Vi ricordo il nostro sito internet, qualora vogliate interagire con noi, di Radio Service, crmpradio.it. Poi ovviamente siamo anche su Facebook, ormai chi non c'è su Facebook, ma cercate crmpradio, oppure la pagina proprio profilo del nostro programma, che è Radio Service CRM. Fra un po' parleremo di shopping, vi daremo qualche dritta. E poi ci metteremo anche in collegamento con gli amici di Serio Moda per darvi qualche consiglio su come vestirvi questa sera, visto che ancora non si sa se piove o se c'è caldo. Vedremo di trovare la soluzione ideale. Arriva Sergio Mendes per l'appunto con Funky Bahia. Questa è Radio Service in diretta su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede. Would you take me out dancing, dancing on the floor? I'll be out Rio, dancing at the disco. Girls be looking sexy, dressing mighty fine. Baby dancing funky, having himself a good time. I'll be stepping out to paint the town and party the night away. I'll be dancing, I'll be grooving, and I'ma do it 'cause the drummer made me do it, made me do it to the way that he played. Liar, liar, liar. Ghetto, loving the favelas. Come on, everybody, won't you feel the joy? Music is the potion, rocking from coast to coast. And I'll be stepping out around the world, washing the pain away. You'll be dancing, you'll be grooving, and you can do it 'cause the drummer made you do it, made you do it to the way that he played. Liar, liar, liar. Oh,

Radio Service è anche su Facebook. Cercaci Radio Service CRM. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Adesso siamo pronti per parlare di shopping. Le dritte per lo shopping. E come ogni buon pomeriggio ci mettiamo in collegamento con le amiche di Serio Moda in via Giglio 24 a Cefalù. Parliamo con Anna. Anna, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio anche a te. Senti, visto che le condizioni climatiche per questa sera non sono sicure, nel senso che alcuni sostengono che ci sia ancora caldo, altri sostengono che ci sia la pioggia, cosa ci consigliate come abbigliamento per questa sera? Allora, io per la ragazza consiglierei un tubino semplicissimo, color corallo, con una fascia in punto vita bianca che spezza il sopra dal sotto, quindi lo rende molto simpatico, molto scollato, tra l'altro, abbinato ad una scarpa con una zeppa molto alta. Sì, per ora vanno molto forte queste zeppe. Sì, poi insomma, la figura. Ma quante sono al 12 centimetri? Proprio 12 no, ma... Siamo sulla buona strada. Va molto forte questo tipo di scarpa quest'anno. Ho visto tantissime donne in giro. E quindi che colore, scusa? Beige, con la fascia corallo. Perfetto, bene, bene. Un abbigliamento molto leggero, colorato, sempre con colori molto estivi. Sì, molto estivi, giusto? Noi siamo ancora in estate, quindi. E infatti, è giusto, è giusto. Mentre per l'uomo cosa ci consigliate? Invece per l'ometto, allora facciamo un jeans slim molto aderente, di questi che si usano molto quest'anno. Slim significa elasticizzato? Sì, elasticizzato, leggermente elasticizzato, con una camicia bianca lasciata fuori o messa di dentro, questa preferenza del ragazzo, che ha nel taschino un particolare molto carino di un fazzolettino che esce. Ok. Senti, il jeans è colore, scusa? Eh? Il jeans di quale colore? Il colore normale del jeans. Perfetto, perfetto. E la camicia bianca. E poi metteremo la cinta al solito blu che richiama sempre la scarpa, rigorosamente sempre blu. Beh, abbigliamento da molto marino, no? Sì, con questo blu, sì. Questo, e non passa mai di moda comunque. E infatti. Bene, anche per gli ascoltatori di Radio Service ci sarà uno sconticino, no Anna? Sempre lo sconto del 50% su queste promozioni, su questi abiti promozionati. Quindi affrettatevi, fino a che ora siete aperte oggi? Fino alle 8:30. Fino alle 8:30, Serio Moda in via Giglio 2-4, andate a fare i vostri acquisti, sia per l'uomo che per la donna, con il 50% di sconto se vi dite che vi manda Radio Service. Così stasera, insomma, siete belli e fighetti per la vostra serata. Grazie Anna. Grazie a te. Allora, più tardi troverete poi le fotografie di questo abbigliamento sul nostro profilo, la nostra pagina Radio Service CRM. Ci vediamo la prossima settimana. Buon weekend. Ciao. Continua adesso la musica su CRMP Radio all'interno di Radio Service con un gruppo che ultimamente sta riscuotendo davvero tantissimo successo. La dedichiamo a Rambo che ci sta seguendo. Si intitola Arriverà. Piangerai come pioggia, tu piangerai e te ne andrai come le foglie col vento d'autunno, triste tu te ne andrai, certa che mai ti perdonerai, ma sì. Sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai e arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, arriverà una frase, una luna di quelle che poi ti sorprenderà. Oh, arriverà la mia pelle a curare le tue voglie, la magia delle stelle. Penserai che la vita è ingiusta e piangerai e ripenserai alla volta in cui ti ho detto no, non ti lascerò mai, poi di colpo il buio intorno a noi, ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai e arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, una frase, una luna di quelle che poi ti sorprenderà. Oh, arriverà la mia pelle a curare le tue voglie, la magia delle stelle, la poesia della neve. Radio Service anche questo pomeriggio, piano piano ci avviciniamo alla conclusione di questa ennesima puntata, poi rinnoveremo l'appuntamento per la prossima settimana. Con il buon Max la notte e con Filippo Brancato, però ancora dovremo parlare di alcune cose importanti, quindi mi raccomando rimanete con noi fino all'ultimo. Poi tra l'altro, insomma, vi consiglio il weekend di CRMP Radio con le classifiche, la Speedy Top, la Dance Parade, sempre mixata da Max in versione dance, mette lui la tutina, quella da discoteca, avanti. Cade dal tetto la palla con gli specchi, partono le luci stroboscopiche in regia CRM e poi magari la mandiamo in webcam domani, Max. I told you that I

So che è molto buono. Io non l'ho provato all'Ascari a partire dalle ore 20. Quindi se volete fate una passeggiata e andate a mangiare questa che è una prelibatezza. Io ricordo da piccolino, insomma, i miei nonni lo facevano. È uscito dal forno il pane con l'olio, poi l'olio quello buono, quello fatto dalle nostre parti, veramente qualcosa di... happy hour di una volta. Sì. Poi col vino quello fatto il in migliore certo modo, di tutti. Il migliore di tutti, hai ragione. Poi, altro evento di cui vi vogliamo parlare, 10-11 agosto, rimaniamo in ambito culinario, ci sarà la sagra della pasta al piano, in via Mendola, nel centro storico di Cefalù, sia il 10 che l'11 agosto, dalle 19.30 in poi potrete mangiare questo piatto tipico cefaludese. Hai ripassato la ricetta? sì, benissimo. Poi, invece, il 14 di agosto, un bel evento sul lungomare di Cefalù, con vari DJ cefaludesi, ne parleremo bene nei prossimi giorni per ulteriori sviluppi. E poi un altro evento importantissimo, giorno 16 di agosto, una mega party splendido al Rice Gerby a Finale di Pollina, dove io e il buon Max suoneremo e faremo un po' di casino sulle mani. Esattamente, e vi faremo ballare quelli che sono i successi più forti di questi ultimi giorni, questi ultimi mesi, di questi ultimi anni, e poi insomma in una location davvero eccezionale, a bordo piscina sul mare, meraviglioso, con dei cocktail, una location meravigliosa, con 10 euro più consumazione inclusa potrete vivere questa serata fantastica. Va bene, adesso vi facciamo ascoltare una canzone che è una di quelle che andremo a farvi ascoltare proprio quella notte, 16 agosto al Rice Gerby a Finale di Pollina. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. Carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I didn't

l'opinione di chi spesso non ne ha. Sai, mi manca un po' non voler mai dire no e ballare tutta la notte rock and roll. La radio passa Marvin Gaye, qualcosa ancora c'è che non cambia mai come ieri. Se ci sei mi tremano le mani, oh, oh, oh. Come ieri, basta il resto invece tu rimani. Oggi è domani. Sì, sì, sì, sembra ieri seduto lì in piazza. Anni di distanza, eri così in gamba. Nei miei pensieri voglia di rivalsa, dire di no in faccia, l'anima intatta. E poi si cambia, si cresce, si dà importanza anche a quello che odiavi tanto, per dire che ce l'hai fatta un po'. E anche se è bello avere fama e successo, in realtà mi... E questa settimana è davvero volata. Radio Service, dal lunedì al venerdì su CRMP Radio. Vi portiamo a conoscenza di notizie, viaggi, cucina, eventi, spettacoli, insomma tutto quello che poi contribuisce a rendere la vostra estate più piacevole possibile. Questo è Giuliano Palma con Marrakesh, come ieri, penultima canzone di questa puntata. Noi oggi chiaramente chiudiamo, anche noi ci andiamo a rilassare. Max, domani sotto la pioggia, eh? Un bel po' di relax questo fine settimana e poi torniamo lunedì. Disco 80. Disco 80. Poi c'era una come si chiama? Una catena di dischi, no, una catena. 80 voglia disco party. Te la ricordi? Era il nome che in quel periodo davano a molti party anni 80. Infatti. Vabbè, comunque volevo invitarvi ad ascoltarci anche prossima settimana. Vi auguriamo un buon weekend. A nome mio, a nome di Max. Buona continuazione. Lidia, qualcosa? Domani la Dance Parade in diretta su CRM. Assolutamente, assolutamente. Grazie a tutti, buona continuazione su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede.